quest'anno si è voluto appunto incentrarla sul microcredito proprio perché l'ONU ha dichiarato il 2005 anno del microcredito e quindi in particolare i lavori si svolgeranno andando a approfondire che cos'è il microcredito e come viene svolto in Italia e nel sud del mondo. Quali sono le proposte che farete? Ma innanzitutto ci sarà un ragionamento, diciamo così, che l'associazione finanziaria sta portando avanti, in base al quale il microcredito è una di quelle buone pratiche che vengono dal mondo della finanza etica, cioè di chi più in generale si preoccupa delle conseguenze non economiche delle azioni economiche, per parlare più chiaro, si preoccupa delle conseguenze ambientali e sociali delle attività economiche, non solo della massimizzazione del profitto, e come tale è uno strumento, diciamo così, innovativo, ma è uno strumento anche che riconosce che nell'economia contano moltissimo le relazioni tra persone. Infatti il segreto del microcredito, che ancora deve essere applicato correttamente in Italia, è quello di far intervenire nella relazione economica proprio una relazione tra persone, una relazione di fiducia, una relazione che non si esaurisce soltanto sotto l'aspetto economico. Lo slogan è "finanziamo la pace". Sì, indubbiamente se l'economia si muove soltanto sul profitto, di fatto troviamo troppo spesso che le operazioni finanziarie sono molto vicine alle tematiche della guerra, e non soltanto per il commercio di armamenti o la diffusione di sistemi d'arma più o meno leciti, ma proprio perché è un sistema in cui, badando esclusivamente al profitto, crea esclusione sociale, quindi crea grandi divari tra i redditi delle persone e non aiuta a trovare le soluzioni pacifiche, diciamo così, ai conflitti che ci sono. Quindi interrogarsi sul senso della finanza non è soltanto una questione che riguarda l'utilità in sé delle operazioni finanziarie, ma riguarda anche interessarsi della pace, perché molto spesso, senza rendercene conto, finanziamo con i nostri risparmi, che vanno in fondi che non sappiamo neanche come vengono gestiti, il petrolio e le guerre relative, Al-Qaeda e le sue diciamo così, iniziative finanziarie, piuttosto che grandi gruppi multinazionali che di fatto creano gravi disagi all'interno del panorama mondiale.